Radio 24 Reportage. Francesco, dalla fine del mondo a Vescovo di Roma, di Katia Caramelli e Jacopo Matano. Sono le 6:30 del mattino quando, dopo un'ora e mezza di fila e dei controlli serrati, riesco a prendere l'ascensore che, insieme a molti colleghi, mi porta sul colonnato del Bernini, per l'esattezza sul braccio di Carlo Magno. Lo spettacolo è impagabile. È un amore edificato per sempre. Fervono i preparativi per la messa di inaugurazione del pontificato del primo papa latinoamericano. I varchi si aprono, i primi fedeli entrano nella piazza, che ben presto si riempie e si colora di bandiere e striscioni. Essere qui per me vuol dire essere vicino al Papa nonostante la distanza, perché siamo una cosa sola. La Chiesa penso sia proprio questo, essere una cosa sola nonostante le distanze. Che emozione è essere qui questa mattina? Prima di tutto perché c'è questo evento bellissimo. Poi l'altra emozione è che un Papa che si fa vedere alle persone, che viene in contatto con le persone, anche la Chiesa, anche se comunque è stata sempre vicina, anche con Josef Ratzinger, con Benedetto XVI, ma adesso ogni tempo c'è il suo pastore. Per noi rappresenta una grande speranza, più che per me, che sono ormai una nonna, diciamo, per i nostri nipoti, i nostri figli, il nostro futuro. Il mio bimbo, di 9 anni, mi ha dato il suo sacchiotto, lo tengo nella borsa, e dice: nonna, porta questo sacchiotto vecchio al Papa nuovo. Da Asti, Comaro Stazione. Che è il paese di origine. I nonni. Quindi è doppiamente importante essere qui. È un piacere, anche perché quando veniva in Italia, in quel paesino tornava, perché ci sono ancora tanti parenti là. Da dove viene? Da Assisi. Ci ha fatto un regalo enorme con questo nome, gli siamo grati. È un'opportunità enorme perché veramente è l'uomo giusto per i nostri tempi. E non ci pure in tentazione, ma liberaci dal male. Alle 8:50 il Papa, a bordo dell'autoscoperta, ha fatto un lungo giro della piazza per salutare i fedeli arrivati fin dalle prime ore dell'alba qui a San Pietro, che lo hanno accolto con un grandissimo entusiasmo. Penso che per tutta la Iglesia è un motivo di allegria, di felicità e un chiamato a vivere la conversione anche con allegria. No? Cesare è un ragazzo tetraplegico da quando aveva 8 mesi. Il Papa lo vede, fa fermare l'auto, scende e lo abbraccia. Dopo il bagno di folla, Francesco rientra in basilica e comincia il rito. Alle 9:30 dalla tomba di San Pietro il Papa è tornato sul sagrato e ha ricevuto i simboli del ministero petrino, il pallio in lana, lo stesso di Benedetto XVI, ad appoggiarlo sulle spalle di Francesco è stato il cardinale francese Thoran e poi l'anello del pescatore che sta a testimoniare il compito che il Papa ha di confermare i fratelli nella fede. Il pontefice lo ha ricevuto dal decano del collegio cardinalizio Angelo Sodano. Egene sento Dios ifton andra Maria, ex is genitis sus. Un rito semplice, snello, come nello stile che abbiamo imparato già a conoscere. Il Vangelo solo in greco e non in latino. Poi l'omelia. Il vero potere è il servizio e che anche il Papa, per esercitare il potere, deve entrare sempre più in quel servizio che ha il suo vertice luminoso sulla croce. Deve guardare al servizio umile, concreto, ricco di fede di San Giuseppe, come lui aprire le braccia per custodire tutto il popolo di Dio e accogliere con affetto e tenerezza la intera umanità, specie i più poveri, i più debili, i più piccoli. Il servizio dunque è il compito principale del Vescovo di Roma e di tutti gli uomini di buona volontà. Tutte le volte che l'uomo non si è preso cura del creato e dei fratelli, ha trovato spazio la distruzione. Ha seguito l'omelia del Papa? Sì. Qual è la parte che l'ha colpito di più? Quella dove parlava di aiutare i poveri, i malati e tutte le persone bisognose. Che cosa si aspetta da questo Papa? Che sia veri davvero una cosa del genere, visto che fino adesso non è mai successo. Speriamo di sì. Un Papa che si chiama Francesco promette di occuparsi, insomma, dei poveri. promettersi, speriamo che mantenga e che faccia valere il suo potere in queste cose. Io sono argentino, secondo me la parte più importante è quando si riferisce ai poveri. Io che vengo da un paese che ha sofferto molto, è quello che più mi colpisce quando un papa in un carico così importante si ricorda dei bisognosi, dei poveri, e quello sempre colpisce tanto. Penso che sia veramente un trascinatore di popoli. Il buongiorno si vede dal mattino. Voler bene i poveri, pensare agli ultimi e non ai lussi. In un passaggio ha detto che bisogna fare in modo che si sia sempre al servizio, e anche il Papa è al servizio. Sì, è vero, infatti ci ha richiamato a tutti, direi, non solo i potenti ma a tutti i cittadini. Naturalmente chi è più in alto deve fare di più, noi che siamo più in basso possiamo anche noi collaborare con loro. Dice que no seamos orgullosos, que seamos humildes. ¿Qué más dijo? Dijo que no fuéramos el papá de los pobres, importantísimo. Lui no voy niente, solo que habíamos cuore, lo único que lui voy. Y lui es el pero papa que noi mancava, que no mancava noi, el papa de noi los pobres. Ai potenti della terra, ai cristiani, ma a tutti gli uomini di buona volontà, il Papa dà un mandato. Quando non ci prendiamo cura del creato e dei fratelli, allora trovo spazio la distruzione e il cuore inaridisce. In ogni epoca della storia, purtroppo, ci sono delle erode che tramano disegni di morte, distruggono e disturbano il volto dell'uomo e della donna. Vorrei chiedere, per favore, a tutti coloro che occupano ruoli di responsabilità in ambito economico, politico o sociale, a tutti gli uomini e le donne di buona volontà: siamo custodi della creazione, del disegno di Dio iscritto nella natura, custodi dell'altro, dell'ambiente. Non lasciamo che segni di distruzione e di morte accompagnino il cammino di questo nostro mondo. Non bisogna avere paura della bontà e della tenerezza, ripete più volte Francesco. Il prendersi cura, il custodire, chiede bontà, chiede di essere vissuto con tenerezza. Avete seguito l'omelia del Papa? Certo. Qual è il passaggio che vi ha colpito di più? Soprattutto il grande rispetto per l'ambiente, per il creato visto come disegno di Dio, come progetto di Dio. È una cosa bellissima, perché il Papa, ecco, già la sua impronta, il fatto di chiamarsi Francesco e quindi molto vicino alla, oltre che alla povertà, anche all'ambiente, come era lo stesso santo. Il messaggio di oggi del Papa ce lo ha ricordato sul conservarsi, cercare di conservare la natura, il creato, il cuore degli uomini. Quindi un discorso splendido. Io non credevo, che sono una persona già avanti, non sono giovanissima, che nella mia vita avrei potuto vedere un Papa con il nome Francesco. Mi è piaciuto questo Papa perché ha parlato di Vangelo. Le 11:30, la messa d'inizio pontificato di Francesco è finita. I fedeli affollano ancora Piazza San Pietro, una marea di gente, quella che si vede, si può vedere da qui, da dove mi trovo, dal braccio di Carlo Magno. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Il Papa venuto dalla fine del mondo ormai è vescovo di Roma. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.